È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 800 24 00 24 il numero di telefono per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la zanzara è radio24.it, se volete scriverci una mail andiamo subito a sentire le ultime dai telegiornali, TG2. Non stancarsi di cercare il confronto, dice il presidente della Camera. La maggioranza non cambi le regole da sola. D'accordo Schifani, che avverte però si è perso troppo tempo. Appello del Papa al vertice FAO, basta con gli sprechi, la terra può sfamare tutti. Napolitano chiede più impegno ai paesi ricchi, ma nel documento finale non ci sono nuovi fondi. Queste sono le immagini del blitz della cattura del boss Raccuglia, considerato il numero due di Cosa Nostra. E adesso si indaga sui pizzini, i messaggi ritrovati. Negli ultimi 30 anni raddoppiati i parti gemellari, fra i motivi le tecniche di fecondazione assistita, alla quale si ricorre sempre più spesso, e l'aumento dell'età delle mamme. Allora, la domanda è molto semplice. C'è un pubblico ministero che si chiama Fabio De Pasquale, che è il PM del processo Mediaset, il quale sostiene una cosa. L'impegno della FAO, dove è impegnato Berlusconi in questi giorni, la FAO è a casa nostra, a Roma, non è assoluto come impedimento, perché il vertice dura 3 giorni e Berlusconi potrebbe venire in udienza anche di mattina e tornare a Roma il pomeriggio. Gli avvocati del Premier hanno chiesto di rimandare l'udienza, che ci sarà probabilmente a gennaio. Le reazioni, Gasparri, vogliono dettare l'agenda al Premier e confermano così che contro di lui esiste un disegno. Cicchitto, disprezzo della Procura di Milano verso gli impegni istituzionali del Presidente del Consiglio. Studio aperto. Ogni 5 secondi un bimbo muore di fame. Le cifre drammatiche al vertice FAO in corso a Roma. L'intervento del Papa, la terra può nutrire tutti, dice, ma i leader dei grandi paesi sono assenti. Esclusivo vi mostriamo gli spacciatori d'aborto clandestino. Operano in pieno centro di Milano, accanto alla stazione centrale. Vendono le pastiglie in cambio di 150 euro e una bottiglia di vodka. Il documento shock. Allarme terrorismo. Nel corso del pomeriggio numerosi volantini di minaccia. 800 24 00 24. Leggo oggi sul giornale un articolo di Paolo Granzotto, con cui concordo pienamente. L'appellismo è il nuovo Gero Vital dei progressisti. A Saviano basta lanciare l'SOS contro la riforma dei processi e subito piovono le adesioni. Torna alla mente la mobilitazione contro Calabresi, accusato della morte di Pinelli, anche se devo dire da questo punto di vista è un'altra cosa. Tra i nomi a piedi calcio i soliti noti come Fo, Consolo, Lamannoia e Sandro Veronesi. In effetti un paio di giorni fa ci avevo pensato. È possibile che su ogni cosa che riguarda soprattutto Berlusconi, e non solo Berlusconi, debba partire per forza l'appello, la chiamata alle armi, la corsa alla firma? Una volta era più complicato, adesso basta un click su internet e si risponde all'appello anti-berlusconiano. Saviano. Signor Presidente del Consiglio, io non rappresento altro che me stesso, la mia parola, il mio mestiere di scrivere. Sono un cittadino. Le chiedo, ritiri la legge sul processo breve e lo faccia in nome della salvaguardia del diritto. Il rischio è che il diritto in Italia possa distruggersi. E questo è l'appello di Saviano. Tenete presenti, per chi non ci ha ascoltato la settimana scorsa, che io la legge sul processo breve ne farei un cartoccio di carta e lo butterei nella spazzatura. Per cui da questo punto di vista non ci sono dubbi, abbiamo già espresso qui alla Zanzara la nostra opinione sul processo breve, ma a me questa appellite, l'appellismo come lo chiama Granzotto, la mania dell'appello a ogni costo, mi dà un po' fastidio, non so, a voi. Poi c'è la satira che naturalmente si scatena sul processo breve, la solita satira, per carità, che sia libera, viva la satira, Luciana Littizzetto, il processo breve è come volere il processo che dura solamente 6 anni, è come dare un tempo per la TAC, sentite. Io ho capito praticamente questo, sì. Che se passa questa legge, sì, i processi non potranno durare più di 6 anni. Sì, in tutti e 3 i gradi. Se durano, sì, più di 6 anni, il reato si estingue. Sì. capito? Sparisce. Sì, come, non hai problemi, come l'ultimo marron glacé quando ti giri. Sì, sì. Quindi questo significa che se passa questa legge estingueremo più reati noi che i meteoriti, i dinosauri. Sì, sì, è vero, sì, probabilmente. Ecco, cioè, è come dire, da domani la lista d'attesa per un attacco deve essere di 10 giorni. Altrimenti sei guarito. Questo sull'attacco e il processo breve, ma c'è un'altra cosa ancora, un altro paragone della litizetto, sentite. Sarebbe bellissimo la figata fare processi brevi, però non si può. Perché? Perché non ci sono i soldi, non ci sono i mezzi. Già adesso quando un giudice deve spiccare un mandato di cattura deve chiedere all'imputato se per piacere si può ammanettare da solo e andare in galera in tram perché non c'è abbastanza personale per andarlo a prendere, no? Sì. Perché adesso è come dire, wow, facciamo la faraona ripiena! Sì. Però non abbiamo l'uvetta, le noci, i pinoli, abbiamo una quaglia. È un problema. Vedi te amore, se riesci a fare la faraona con una quaglia imbottita di niente, vediamo. Cioè io dico Alfano, sì. non lo sa? Sì, ma Luciana, ma sono cose... Angiolino non lo sa? Che la vita è questa qua? Dove vive Alfano? In Botswana vive? Sì. E fa il pendolare tutte le mattine? Beh, insomma, qui il discorso si fa un po' più politico, diciamo. Le risorse, sempre le risorse. Ripeto, l'altro giorno, portandoci dei dati, Luca Ricolfi sulla Stampa ha dimostrato che non è questione di risorse, non è che le risorse che spendiamo nella giustizia siano inferiori rispetto a quelle di altri paesi, è che le gestiamo evidentemente male. Ci sono degli uffici giudiziari che funzionano alla grande dopo una ristrutturazione. 800 24 00 24. Andiamo invece a sentire Franco Bechis questa mattina. Franco Bechis è vice direttore di Libero, questa mattina durante credo Omnibus. Cosa ha detto Bechis? Ha detto in realtà Fini, e qui andiamo nel campo, come dire, della strategia politica, di quello che sta accadendo all'interno del centrodestra. Fini in realtà ha dato una polpetta avvelenata a Berlusconi, sentite. Fini è quello che ha fatto inserire dentro il disegno di legge sul processo breve le norme che lo rendono anticostituzionale. Quindi dopo aver fatto quella manovra, perché per esempio una delle cose che ha fatto inserire lui e che sicuramente rende anticostituzionale è sotto profilo della procedura penale far differenza tra incensurati e quelli che incensurati non sono. È stato Fini a volere quel passaggio. Inserita dalla Buongiorno. Che di fatto rende incostituzionale quel disegno di legge, quindi c'è da pensarci male evidentemente, prima mette la cosa che fa saltare il disegno di legge dicendo no perché la modifica, perché è spendibile verso il proprio elettorato, un po' come la Lega ha fatto inserire il riferimento al testo unico sull'immigrazione, che non è quello per il reato di immigrazione clandestina, dentro ci sono i reati degli scafisti e i reati dello sfruttamento dei clandestini, e sono tutti un po' senza memoria delle cose che si sono fatte. Il Partito Democratico aveva presentato solo 2 anni fa un disegno di legge che era 10 volte peggio di questo, perché avrebbe cancellato tutti, mandato fuori tutti i processi di mafia, camorra, di omicidio, avrebbe salvato persino Anna Maria Franzoni grazie alla Finocchiaro. L'ha fatto nel 2006 sotto il governo Prodi. Quella di Fini è una trappola allora. Tutti hanno tentato di farlo, quella di Fini è sicuramente una trappola. È sicuramente una trappola, secondo Bechis, una trappola a Berlusconi. Dunque la guerriglia, il tema è quello della guerriglia nel centrodestra di cui tutti parlano, e poi anche del fatto che il Partito Democratico, e questo l'ha pubblicato Libero, l'ha pubblicato il giornale, aveva presentato nel passato dei disegni di legge addirittura peggio da un punto di vista degli effetti pratici di quello presentato dal PDL. Qui le voci sono discordanti, i pareri sono discordanti, non è vero, non hanno gli stessi effetti, era un contesto diverso. Come al solito non si ha mai una certezza, anche se alcune volte carta canta, e in questo caso insomma, è piuttosto esplicito, è piuttosto chiara la cosa. Traffico. Alice, ma tu da grande cosa vorresti fare? Io vorrei fare la parrucchiera per gorilla. Qualunque sia la tua professione, passa a Wind e scegli le offerte all inclusive entro fine anno. Avrai il 50% di sconto sul canone per i primi 6 mesi. Da oggi parli, navighi e mandi SMS a partire da 12,50 € al mese più IVA. Per condizioni e durata contrattuale vai su wind.it. Ma i gorilla stanno bene i capelli giallo banana? Attiva le offerte all inclusive, chiama il 156, ti rispondono subito. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Sulla 4 in direzione di Brescia c'è coda in uscita a Sesto San Giovanni e in uscita a Capriate per il traffico intenso. Sempre in A4 è stato chiuso il casello di Dalmine in entrata verso Brescia per un incidente. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda sul lago di Varese provenendo da Milano verso Bugugiate, mentre sulla 9 ci sono rallentamenti tra Saronno e il bivio con la 8 verso Lainate. Ci spostiamo all'inizio della 14 dove c'è traffico congestionato tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 1. Al centro, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, coda di un chilometro in aumento tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze e rallentamenti tra Firenze-Ovest e Prato-Est verso Pisa. Sulla Firenze-Pisa-Livorno invece c'è coda in uscita alla Strassigna e a Montelupo-Fiorentino in direzione di Livorno. Nei pressi di Roma code sul tratto urbano della 24 e sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ostiense e la 24 e in interna tra Flaminia e Prenestina. In città il traffico è intenso soprattutto nel centro storico per le modifiche e la circolazione in zona Aventino per il vertice della FAO. Fino a mercoledì resterà anche chiusa la stazione Circo Massimo della metropolitana B. Infine al sud, sulla tangenziale di Napoli, coda in entrata a Corso Malta e rallentamenti tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Il nostro numero verde per le vostre segnalazioni è l'819-73-13. Strada in diretta torna tra circa mezz'ora. Promo 24. Un'azienda che pensa al futuro è un'azienda che pensa all'ambiente. Le nuove Passat EcoFuel e Blue Motion Technology garantiscono innovazione e comfort nel massimo rispetto dell'ambiente, con minimi costi d'esercizio e minimi consumi. Passat 1600 Blue Motion Technology è il nuovo diesel di terza generazione che con i suoi 105 cavalli permette di percorrere più di 1000 km con un pieno. E la nuova Passat TSI EcoFuel è l'unica con motore turbo a iniezione diretta bivalente benzina-metano da 150 cavalli. Con Passat fino a 5.000 euro di eco incentivi e con il leasing agevolato per chi ha una partita IVA si risparmia e si salvaguarda l'ambiente. Offerta valida fino al 31 dicembre. Informazioni e dettagli su www.volkswagen.it. La Zanzara. Bene, 18:48, 800 24 00 24. Fabrizio ci chiama da Bari, buonasera. Buonasera, intervenivo in merito al processo breve solo per fare una breve considerazione appunto. Se ci fosse da meravigliarsi della sinistra non starei a parlarne, ma io continuo a meravigliarmi del fatto che si riabilita il lodo Alfano definito anticostituzionale. No, veramente l'ha fatto Casini, non è che l'ha fatto sì, la Casini, sinistra. Ma ho sentito, ho letto anche di voci che venivano, qualche voce sparuta devo dire la verità, che veniva anche da sinistra. In merito non mi è sembrato. No, ho letto, adesso non mi ricordo la fonte, ma l'ho letto, ne posso assicurare. Ma guardi, il segretario del Partito Democratico Bersani ha appena detto che di no alla proposta di Casini di un lodo Alfano costituzionale, diciamo, per via costituzionale, non è solo questione di procedure, siccome si tratta di proteggere il Presidente del Consiglio non va bene. Esatto, questa è stata la voce istituzionale della sinistra. Poi istituzionale, è il segretario del Partito Democratico. Questa però non rappresenta l'unica parte della sinistra, anche se la più significativa. Comunque, quello che proprio mi imbarazza è il fatto della riabilitare appunto il lodo Alfano, proprio perché si è fatta una legge che o si vorrebbe fare una legge che è palesemente impopolare. La proposta di Berlusconi che va verso l'impopolarità per riabilitare una cosa che comunque era incostituzionale, per cui l'unica alternativa, e tutti quanti devono dirlo unanimemente, è fatti processare. Solo questo era il mio intervento. Va bene, Fabrizio, la ringrazio. Grazie. Marco, provincia di Milano. Sì, dottor Curciani, buonasera, passo la radio. Dica. Ecco, niente, cerco di tenere a bada un po' la rabbia che oggi è tanta. Addirittura, che è successo? Prego. Come mai è tanta la rabbia oggi? Ma glielo spiego subito, ma soprattutto lo spiego un po' a chi sta a sentire la radio. Ho appena sentito una simpatica notizia, nel senso che ieri sera una parte dei soldi che oggi ho pagato di tasse, 2.700 euro più 700 di INPS, sono state utilizzate per scortare un pullman che portava delle signorine molto eleganti, molto carine, alla festa del signor Gheddafi. Sono state scortate dai nostri carabinieri, dalla nostra guardia di finanza. Quindi sono molto contento di sapere che questo mio sacrificio di oggi, di tirar fuori questi soldi e di non portarli, che ne so, in Svizzera, a Monte Carlo, ma di lasciarli qui, vengono spesi così bene, mi fa molto piacere. Credo che il popolo delle partite IVA così disonesto ne sia veramente fiero. Lei cosa dice? Guardi Marco, la scorta a Gheddafi mi sembra sia normale, c'è un vertice importante come quello della FAO in Italia, dunque immagino che tutti i leader vengano scortati. Lei se la vuole prendere in generale con questi meeting, con i soldi che vengono spesi? Sono d'accordo con lei, fosse per me la FAO dovrebbe chiudere baracche e burattini, ma insomma non è questo il punto. Una volta che però Gheddafi viene in Italia, qualcuno si dovrà pure incaricare di scortare il leader libico, o no? Ma non era per Gheddafi, io mi stavo riferendo al pullman che portava le signorine italiane, non so che signorine fossero, so che c'era questa festa, ho sentito la radio, e il pullman ha scortato queste signorine che erano state avvisate di andare a un meeting, che non sapendo bene quale fosse, poi invece è stato scortato e sono state portate a questa festa del signor Gheddafi. Il pullman sì, era, non era una festa, allora... Poi l'ufficio stampa di quello che lei chiama il signor Gheddafi, che cosa ha spiegato? Non si è trattato di una festa, come scritto da qualche organo di stampa, è un meeting in cui lì in realtà non è l'ufficio stampa di Gheddafi, è Alessandro Londero che è responsabile dell'agenzia di hostess che ha reclutato le ragazze che sabato hanno partecipato a questo primo incontro con il colonnello, poi ce n'è stato un altro. È un meeting in cui il leader libico, citando alcuni passi del Corano, vuole spiegare che le donne non sono considerate inferiori nel mondo musulmano. Ma insomma è la solita politica di Gheddafi. Ma insomma Marco, non ho capito ancora qual è il punto. Lei si scandalizza per il fatto che questi pullman siano stati scortati? Solo sapere che una parte dei soldi che a fatica oggi, come me, penso tanti, mi auguro tanti, anche se il report ieri ha fatto vedere un bello spaccato del paese, una parte di questi soldi sono stati utilizzati per scortare un pullman di signorine, come potrebbe essere, che ne so, mia sorella, che va alla festa del signor Gheddafi. Io non so se lei è contento di questo, cioè un conto è scortare un onorevole, che di onorevole ormai hanno ben poco, ma un'altra cosa è delle signorine. Qualunque. Ho capito perfettamente, evidentemente queste qua si devono recare da Gheddafi e sono state scortate da qualcuno, non so perché francamente. Francesco da Milano, la ringrazio. Sì, buonasera, mi sente? La sento, dica. Salve, senta, io volevo fare un intervento un po' diverso, diciamo, quindi non entro nel merito degli argomenti di questi giorni, ma volevo intervenire riguardo al ruolo un po' dei giornalisti in generale, quindi volendo anche il suo, e lo faccio ricollegandomi un attimo all'intervento che ha fatto ascoltare adesso di Beckis questa mattina. Sì. Che parlava della legge che avrebbe proposto la Finocchiaro qualche anno fa. Sì, e poi c'è anche un'altra legge presentata da altri deputati nel passato, adesso del Partito Democratico. Ecco, allora, secondo me sarebbe il caso che, almeno per come la intendo io, che un giornalista che sente questa affermazione quantomeno facesse la domanda affinché Beckis spiegasse per filo e per segno che cosa, in che cosa era migliore o peggiore, che cosa prevedeva quella legge, perché sennò chi ascolta, a mio modo di vedere, se non è informato dei fatti, o si va a informare personalmente. Lei è informato? No, io sinceramente non lo so e devo dire che sono molto curioso di saperlo. Adesso io prendo questo. Guardi, è una esempio. Polemica che va avanti da diversi giorni. Scusi un attimo, adesso c'è il giornale radio, poi se vuole torno in linea con lei quando riprendiamo la trasmissione. È una polemica che va avanti da diversi giorni. Prima ne ha scritto il giornale, poi Libero, o prima l'uno poi l'altro, adesso non ricordo. Comunque, insomma, secondo alcuni esponenti del centrodestra e secondo alcuni giornalisti di questi quotidiani, alcuni deputati del Partito Democratico, adesso del Partito Democratico, presentarono tempo fa dei disegni di legge assolutamente uguali, identici, i 6 anni, i 2 anni per ogni grado di giudizio, a quello adesso presentato dal PDL. Ci sono molti ascoltatori che mi hanno scritto: la proposta Finocchiaro e la proposta di altri esponenti del Partito Democratico era completamente diversa rispetto alla proposta che adesso fa il PDL sul processo breve. Sembra che effettivamente per quello che riguarda il primo grado i tempi non siano gli stessi, diciamo che era uguale lo spirito, quello cioè di avere un processo più breve rispetto ai termini attuali. TG3. Fini, le regole si cambiano in modo condiviso, guai se ogni maggioranza le modifica a proprio piacimento, nuovi dubbi sul processo breve. Bersani, la maggioranza ritiri quelle norme e discuta seriamente sulla giustizia, Casini, meglio un lodo Alfano con legge costituzionale. Si chiude con un fallimento il vertice a Roma sulla fame nel mondo, tanti impegni ma niente stanziamenti, il Papa condanna egoismo e sprechi. Obama in Cina parla agli studenti, diritti umani e libertà di espressione sono valori universali ma la TV non lo trasmette. Roma spegne il segnale analogico e diventa la prima capitale europea nel digitale terrestre, caccia al decoder tra dubbi e disagi. I cambiamenti della società italiana attraverso la moda, in anteprima al TG3 il documentario di Giovanna Gagliardò, Abito di domani. Il caso di Denise Pepitone, a chi l'ha visto, spunta la voce di una bimba da una intercettazione ambientale registrata 24 ore dopo la sua scomparsa. Andiamo a sentire anche Sky TG24. Basta sprechi, basta opulenza, il Papa al vertice FAO indica la strada. Approvato il documento finale, molti impegni ma nessuna decisione. Fini invoca riforme condivise, le regole non si devono fare a piacimento, dice. Bersani chiude al processo breve, dialogo solo se l'ipotesi sparisce. Berlusconi impegnato con la FAO, processo per i diritti TV rinviato a gennaio. Nuclei di azione territoriale, lettera con minacce a Rai, Mediaset e Unità. Sarà riesumata la salma di Cucchi, è giallo sulla macchia di sangue. Trovato suicida a Foggia l'uomo che sparò la sua ex a Montesilvano. Obama dialoga con gli studenti cinesi ed esalta la libertà d'espressione. Formula 1, la Mercedes scarica la McLaren e punta sulla Brown GP. Eccoci, 19:20 e 21, anzi in questo momento, 800 24 00 24. Se la settimana scorsa si era discusso di code ed orecchie dei cani, ci eravamo persi anche un'altra discussione, quella incredibile anche questa in Parlamento, sugli italiani presenti nelle squadre di calcio. Avete capito bene? In Parlamento, in seduta plenaria, non in commissione o nei corridoi o alla buvette, si discute di Balotelli, della formazione dell'Inter, cioè quanti italiani, pochissimi, militino nell'Inter e anche nelle altre squadre. Tutto questo tra deputati, non al bar. In porta Giulio Cesar, in difesa Maicon, Samuel, Lucio e Chivu. A centrocampo Javier Zanetti, Cambiasso e Stankovic, trequartista Snyder, in attacco Eto'o e Milito. La squadra è quella che ha vinto il campionato di calcio negli ultimi 4 anni. Soltanto 2 giocatori ogni tanto, casomai italiani, vengono utilizzati. Va bene, l'Inter non ha italiani, si chiama internazionale, è comprensibile. Nella finale della Coppa dei Campioni tra 2 squadre inglesi c'erano solo 4 inglesi in campo. Potrei citare il caso del brasiliano Amauri o Amaurì nella nazionale italiana di calcio, dove tra l'altro gioca già l'argentino Camoranesi. Avete sentito del Partito Democratico Sarubbi, Ciocchetti dell'Udici e Pescante del PDL divertirsi in Parlamento a parlare di cose che non dovrebbero mai arrivare in un emiciclo importante e sacro come quello di Montecitorio. 800 24 00 24, c'è spazio oggi per un'altra puntata del nostro magnifico UFO Robot. Stiamo parlando naturalmente del ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, che ci regala sempre qualcosa di nuovo, qualcosa su cui discutere, qualche provocazione. Ieri credo fosse in radio, a RTL, a un certo punto dice: D'Alema no, non va bene, il governo, che pure si è pronunciato a favore di D'Alema, fa male, perché D'Alema ancora è un post comunista. Stiamo parlando naturalmente della possibile nomina di D'Alema a ministro degli esteri europeo. Sentite, Brunetta contro D'Alema. Il ministro Brunetta tifa per D'Alema ministro degli esteri dell'Unione Europea, sì o no? No, lo dico con molta sincerità, non per ragioni personali, ma penso che un ministro degli esteri europeo deve avere altre caratteristiche che non sono quelle che il pur competente D'Alema ha. però ovviamente l'Italia ha tutto l'interesse ad avere un italiano in una posizione preeminente a livello europeo, però devo dire, mi faccia dire tutto. I comunisti e i postcomunisti non hanno ancora fatto la loro Bad Godesberg, non sono ancora diventati socialdemocratici. Finché non diventano socialdemocratici, non possono rappresentare il futuro dell'Europa. E ripeto, questo nonostante lo stesso ministro Frattini pochi minuti prima avesse detto: beh, è una questione di interesse nazionale, dunque D'Alema deve essere appoggiato dal governo. Poi Brunetta il giorno dopo, perché non c'è solo Di Pietro che va in televisione, Di Pietro si lamenta, Brunetta no, naturalmente, è ospite di Monica Setta, ospite del programma di Rai 2, e qui si scatena in discussioni che in realtà vanno subito sul personale. Prima però sentite questa storia che riguarda gli auguri di Natale. Dice Brunetta, in sostanza, si sprecano troppi soldi, gli uffici pubblici fanno troppe letterine di auguri a Natale, si potrebbero risparmiare un sacco di quattrini. Gli auguri di Natale sono una cosa bella, gentile, eccetera, però fatti con i soldi degli altri non vanno assolutamente bene. Allora, se d'accordo. Uno se li paga da solo, si va in cartoleria, si prende i cartoncini, si mette i bolli, fa tutti gli auguri che vuole. Ma con i soldi degli altri, con i soldi di tutti noi, non è proprio il caso. Le racconto una piccola storia. C'è stato San Renato l'altro giorno. Un prefetto mi ha mandato gli auguri e me li ha mandati con un telegramma. Non so quanto costi un telegramma adesso, un telegramma breve, ma sarà costato 2, 3, 4, 5 euro, non lo so. Beh, ma perché non mi ha mandato un'email che non costa nulla? Anche su questa intuizione, certo, ho fatto una circolare, per favore, dirigenti, impiegati, pubblici dipendenti, se volete mandare gli auguri di Natale, fate dei bellissimi però mail, fatelo a spese mail vostre, se volete fare, i cartoncini, certo, colorati, eccetera eccetera, ve li comprate. Ho fatto una stima, si risparmiano 5 milioni di euro. State attenti, dirigenti, impiegati della funzione pubblica, impiegati dello Stato, basta con gli auguri di Natale. Basta comprare cartoncini, buste, usare la posta. Bisogna utilizzare internet, così si risparmiano un sacco di soldi. E poi abbiamo capito, sempre in questa favolosa conversazione con Monica Setta, che probabilmente Brunetta si sposerà. Sentite. C'è una donna dell'opposizione che lei inviterebbe a cena? Ah, no, ce ne sono tante. Però quella che mi ha affascinato di più, tempi recenti, è Anna Finocchiaro. Oltre che essere una bella donna, di grande intensità e di grande capacità relazionale, donna interessante, bella e interessante. Senta, ministro, mi dica, ma è vero che lei si sposa? Forse. Forse, perché lo scrive un settimanale, potrebbe forse, essere forse. Nel 2010? Vede, sono single ad oggi. Ho quasi 60 anni e forse capitolerò. Ma nel 2010 potrebbe essere? Potrebbe essere, forse capitolerò. Potrebbe essere. Potrebbe e allora essere. Io la ringrazio. Bene, direi di chiudere questa parte della Zanzara con Luciana Littizzetto su Maurizio Gasparri. Perché mannaia della Littizzetto su Gasparri, devo dire un po' scopiazzata in questo caso da molte cose che ho letto su internet nei giorni scorsi. Andiamo. C'è una notizia terribile. Sì. Che Gasparri è risultato negativo a tutti i test. Niente, risultato negativo alla cocaina, alle anfetamine, gli oppiacei. Meno male. No, è una notizia gravissima. Ma perché noi pensavamo che le cose che diceva le dicesse perché era sotto l'effetto di droghe pesanti. Andiamo a Milano. Francesco, buonasera. Io volevo fare un breve intervento relativamente appunto a tutti gli appelli che appaiono sui siti dei giornali online, ma non solo. E niente, volevo dire che non mi sembra una cosa così negativa, intanto perché appunto si sa che gli italiani che leggono i giornali sono pochi, per cui anche quando magari un appello raggiunge 500.000 di sottoscrizioni, secondo me appunto è un dato abbastanza significativo. Poi volevo dire che lo strumento dell'appello è anche un po' figlio dei tempi che viviamo, cioè un modo molto più diretto che non la raccolta di firme, e che forse, a differenza della raccolta di firme, appunto manca di una certa ufficialità, tracciabilità, in quanto al momento basta recarsi sul sito, cliccare e si dà il proprio voto, magari una sottoscrizione tramite una email valida o appunto dei dati rintracciabili darebbero un dato ancora più valido. Sì, ma Francesco, al di là dei numeri che appunto possono essere chiaramente truccati in una sottoscrizione online o comunque possono essere esagerati, perché uno potrebbe cliccare da 100 computer diversi e potrebbe essere la stessa persona, no? Questo mi sembra scontato. Non ne facevo una questione di modernità, figuriamoci se rifiuto il computer o l'appello online come, o il modo di mobilitare le persone online come una forma possibile di anche di fare, di aumentare il numero di lettori, eccetera, eccetera, e comunque di fare discussione politica. Assolutamente no, il punto non è questo. È la sindrome a fare di ogni discussione un appello, trasformare ogni dibattito che c'è in un appello online, quando in realtà il risultato di questo appello è già segnato, cioè si vuole dare l'idea di un'emergenza clamorosa, di un'emergenza da sanare, allora ecco le 100.000, le 200.000, le 300.000 firme. Uno fa un appello quando c'è di fronte una stortura gravissima, magari è il caso del processo breve, non lo so, ma mi sembra che se ne siano fatti parecchi di appelli negli ultimi tempi. È un po' come il referendum, dove un po' quando se ne abusa perde di sostanza. La ringrazio. Daniele Damanzi, no, c'era una Stefania da Genova che però è andata giù. Daniele da Macerata, buonasera. Buonasera, mi sentite? La sento, dica. Volevo solamente dire, cioè il momento di disinformazione che vive il paese. Sì, ho sentito l'altra sera Gasparri, il senatore Gasparri, che diceva che il decreto presentato dalla, il disegno di legge presentato dal Partito Democratico era addirittura più ampio di quello presentato dalla Casa delle Libertà, del Popolo della Libertà. Ma sarebbe stato allora una mossa politica prendere e riesumare quel decreto che giace negli atti, cioè quel disegno di legge identico, e portarlo in aula senza toccare una virgola. Sì, certo, ma, certo. Dal momento che però quel decreto legge non avrebbe risolto i problemi, per cui, perché non è vero che è uguale, addirittura non si applicavano le norme come normalmente avviene per le leggi penali ai processi in corso, e la prescrizione addirittura era prolungata. No, sui processi in corso in realtà non è così, si applicano le norme quando c'è un vantaggio per, ma le più favorevoli, per l'imputato. Che per legge si dice si applica ai processi in corso. Guardi, un ascoltatore mi ha mandato una mail in cui mi scrive: trovo pazzesco che si continui a dire che la proposta Finocchiaro fosse identica all'attuale. In realtà la Finocchiaro prevedeva 2 anni fra notizia di reato e avvio dell'azione penale del PM, 2 anni fra avvio dell'azione penale e inizio del dibattimento, 2 anni fra inizio del dibattimento e sentenza di primo grado. In totale 6 anni, che sono troppi comunque, mentre la Gasparri ne prevede 2 per tutta la procedura. In più la Finocchiaro escludeva dal conteggio le manovre dilatorie che la difesa può mettere in atto. E poi mi dice di soffermarmi sull'articolo 4 mandandomi il disegno di legge, ma ha ragione lei, Daniele, se si voleva incastrare il centro-sinistra bastava riproporre quel disegno di legge tale e quale, no? L'avrebbero votata, cioè il Partito Democratico l'avrebbe votata, come l'avrebbe votata anche Di Pietro, perché era una proposta che poi queste riforme vanno fatte in momenti di tranquillità del paese, perché vanno accompagnate da un'amnistia che nessuno ha il coraggio di dire. Queste stanno facendo le amnistie mascherate, con una situazione in cui l'Italia per 3/4 è in mano alla malavita. Facciamo l'amnistia. Che lasciamo? Daniele, la ringrazio. Alberto ci chiama da Udine, buonasera. Alberto, mi sente? Non mi sente. Fabrizio da Treviso. Buonasera, dottor Cruciani. Prego. Allora, io vorrei fare una proposta che secondo me potrebbe essere interessante per ridurre i tempi della giustizia. Secondo me l'unico sistema è quello di toccare dal punto di vista economico, cioè visto che i tribunali di Torino, questo è un dato ufficiale, in media ci mette 17 mesi per un processo di primo grado in sede civile, allora io premerei questo tribunale con un aumento del 30% sullo stipendio a tutti i dipendenti e penalizzerei del 30% degli stipendi a tutti gli altri tribunali. Purtroppo, mentre si può fare la prima cosa, la seconda non si può fare. Lo so, però basterebbe fare una legge, perché un avvocato mi ha detto un giorno: guarda, ci sono giudici che le carte le guardano e altri che le spostano. E quindi proprio per, secondo me, al di là di leggi, processo breve o non breve, solo penalizzando dal punto di vista economico si può ottenere un risultato, visto che c'è un tribunale che riesce a fare un processo civile in 17 mesi, questo può volere anche per vedere la media nel settore penale, sì. E quindi incentivando, dando premi sugli stipendi e penalizzarli per legge a chi non ha una media riferita, per esempio, al Tribunale di Torino per il civile. Sì, no, ma Fabrizio, lei è perfettamente d'accordo. Il problema, lo sa qual è? Che io e lei ce la possiamo raccontare, possiamo parlare di certi argomenti, la riforma della giustizia, come si fa a avere tempi brevi, una giustizia che decide in tempi rapidi, che dia certezze agli imprenditori, ai singoli, a tutti. Il punto non è questo, non è questo al centro dell'attenzione degli uomini politici, dei vertici delle istituzioni, di Berlusconi, dei suoi avvocati, dei parlamentari, del PDL, eccetera. Non c'è nulla di tutto ciò. L'unica preoccupazione è come trovare la formula, almeno di come dire, non so nemmeno come definire, la meno sguaiata possibile per interrompere i processi di Berlusconi. Questo è il punto fondamentale, non la riforma della giustizia, altrimenti uno l'avrebbe messa in piedi la riforma della giustizia subito, immediatamente, dall'inizio della legislatura. Personaggio, uno dei personaggi più amati dal nostro pubblico. Io voglio che voi vi incazziate, non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Io voglio che ora voi vi alziate, voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Il nostro imbelvito Giovanni da Pisa, buonasera. Cruciani, buonasera. Giovanni, che mi vuole dire? Come va? Non c'è male, non c'è male, ce la caviamo. Innanzitutto, lei immagino che anche oggi si sia vestito nella solita modo elegante con cui si presenta, insomma, mi deve mandare qualche foto, perché io la voglio vedere vestito di tutto, sì, punto. Sì, no, oggi sì, perché qui a Pisa è abbastanza caldo, non so, sì, se a Milano fa lo stesso. Insomma, è un po' umido, un po' no, umido. No, qui si sta benissimo, sicché camicia e giacca, una cosa stupenda, una giacca a pepe sale, molto bellina, fatta da un sarto, con lo sacco, la martingala cucita dietro, con le tasche, con le... addirittura. Con le tasche, con le, come si chiama? Con, la, con l'ampliamento, insomma, sì, a, sì, a sacchetto. Sì. È bella, bella. Vabbè, però oggi gli è venuto di chiamarci, come mai? Che è successo? Ma no, niente, perché io lei lo sa, le dissi la prima volta, io non me la prendo con Berlusconi perché non riesco a prenderlo sul serio. E invece sono masochista, prendo sul serio lei. E lei mi fa imbevire ogni volta. Ultimamente lei ha due ascoltatori in giorni diversi che chiedevano: come mai Berlusconi non si fa a processare? E diceva: ma l'aveva detto che andava a Milano e sbugiardava tutto. E l'ho detto pure poi, io, l'ho detto già. Ma poi ha aggiunto, evidentemente è cambiato qualcosa. Ma cosa vuole che sia cambiato, Cruciani? La strategia, evidentemente quella frase là, cioè vado là, sbugiardo tutti i giudici, l'ha detta così sul momento, poi i suoi consigli... No, lo sapeva, non sul momento. Cruciani, porca miseria, lei attribuisce a Berlusconi qualcosa che lei ha nella sua testa. No. Lui, quando disse così, non ci pensava nemmeno di andare a Milano, proprio, ma uno che vuole farsi processare, Cruciani, uno che vuole farsi processare, cosa fa? Corrompe i giudici perché da un giorno all'altro, ogni giorno ci sia un'udienza, va laggiù di corsa, si picchia, si fa mettere dentro per rissa. Questo fa, Cruciani fa questo. Vabbè, questo fa il Presidente del Consiglio però, Giovanni. Ma porca miseria. C'è da tenere conto di questo. Guardi Giovanni, io sono d'accordo con lei, cioè, una cosa grandiosa anche dal punto di vista comunicativo che potrebbe fare Berlusconi è quella di presentarsi ogni giorno al processo Mediaset, all'altro processo Mills, ogni giorno quando ci sono le udienze, cioè presentarsi, dire la sua, sarebbe una straordinaria campagna elettorale, secondo me le capacità di governo non ne risulterebbero pregiudicate. Non hai modi. Non ha, non ha la, la invece secondo lei non ci pensa nemmeno lontanamente, non ci pensa nemmeno perché sa di essere colpevole, Cruciani. Ah, ridaglia con questa cosa, Giovanni, lei lui è convinto di questo, esattamente, di essere colpevole. Chi meglio di lui lo sa, se non farebbe come ho detto io a Milano di corsa e dice no all'udienza una volta ogni 5-6 mesi, no, ogni giorno lo dovete fare, e lì veramente insomma fa, proprio... Può essere convinto, Giovanni, mi scusi, può essere convinto che i giudici abbiano un pregiudizio nei suoi confronti e che lo vogliano condannare a ogni costo. Ma non l'abbiamo visto fino ad ora questo pregiudizio, perché fino ad ora è stato per certe prescrizioni, qualche volta attenuanti generiche, assolto. Poi magari in secondo grado, in situazioni, insomma, con del tempo che è passato, insomma, non vuole in questo momento presentarsi davanti all'opinione pubblica come qualcuno che è stato condannato. Questo lo si può capire umanamente, Giovanni, anche lei lo può capisco perfettamente, lo capisco perfettamente, ma mi sembra ma allora sì ma qui questo è un punto cruciale, e il fatto è che essendo lui convinto, sapendo perfettamente di essere colpito, vabbè, questo lo dice lei, lui può dire, ma Cruciani, no, vabbè, questo di lei è questo dopo che aveva detto così, sì. Dopo che mi ha detto che avrebbe sbugiardato. Anche lei, io ho l'impressione che se prima era, diciamo, al 50%, ora anche io perché la seguo, Cruciani, la seguo e ho sensibilità. Io credo che anche lei sia, diciamo, non convinto che sia colpevole, ma più convinto di prima. No, Giovanni, si sbaglia, io non sono assolutamente convinto di questo perché non conosco bene le carte processuali come le conoscono altri, eccetera. Ma la logica. No, ma non è la logica, in questi casi non funziona la logica, l'intuito, eccetera, funzionano altre cose. Come ho detto io prima, uno che sa no, può essere convinto che invece lo vogliono condannare per forza, può essere convinto anche di questo. Ma questo non si è verificato fino ad ora, perché? Vabbè, ho capito, si può verificare anche una volta. Giovanni, un attimo solo, senza dimenticare, Giovanni resti qui insieme agli altri ascoltatori, senza dimenticare una vicenda sulla quale ci siamo soffermati spesso nel passato, su cui abbiamo fatto una piccolissima battaglia che magari ricominceremo, ridateci Battisti, c'è la vicenda di Cesare Battisti. Cosa c'è di nuovo? C'è stato un incontro oggi, nessuno pensava che fosse un incontro decisivo, ma certamente un incontro importante, chissà cosa si sono detti, tra il presidente brasiliano Lula e il presidente del Consiglio Berlusconi. Secondo me ha scritto una cosa perfetta oggi sulla Stampa, editoriale, giusto fare un editoriale, secondo me è una bella scelta quella della Stampa su questo argomento e non sulle solite vicende della politica italiana. Cesare Martinetti, che saluto, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, il problema che ha impostato Martinetti è molto semplice. L'Italia dovrebbe fare prevalere, cosa che secondo me, sto seguendo la vicenda Battisti, Martinetti l'ha seguita soprattutto quando era corrispondente a Parigi per la Stampa, l'Italia dovrebbe far valere il principio di interesse nazionale in questa vicenda, e finora la mia impressione è che questo interesse nazionale non sia stato fatto valere nei confronti del Brasile. Poi, per non parlare del passato, quando la vicenda insomma era stata un po' lasciata così, a parte qualche momento, qualche episodio, magari il ministro Castelli in alcuni momenti, insomma, la cosa era lasciata un po' andare lì a Parigi. Martinetti. Sì, certo, la cosa fu abbandonata, la storia è lunga, eccetera, ma per venire a Battisti oggi e alla questione brasiliana, io sono d'accordo con quel che dicevi tu, cioè in questo momento io credo che sarebbe un grave smacco per l'Italia se il Brasile non desse l'estradizione a Battisti. Perché? Perché il Brasile, in modo sia pure confuso, direi simpaticamente un po' brasiliano, però sostanzialmente non dà l'estradizione a Battisti perché gli riconosce uno status di rifugiato politico, ma i rifugiati politici, come noi sappiamo bene, sono delle persone che escono da un paese in cui non c'è libertà, in cui non c'è il diritto, certo, garantito, eccetera, e questo non mi pare il caso di Battisti. Cioè, si dà per esempio adesso ai somali che vengono in Italia, che ne so, ai birmani che dovessero arrivare in Italia, insomma, a persone, certo, che sbarcano da noi perché in quei paesi c'è una situazione complicata dal punto di vista dei diritti umani. Certo, sono dissidenti, sono oppositori, sono anche semplicemente delle persone che fuggono da situazioni di crisi, da dittature, da guerre, eccetera. Ecco, Battisti non è fuggito da nessuna guerra. Battisti ha fatto naturalmente la sua guerra, che è costata delle vite umane, per quelle vite umane, insieme ai suoi compagni, è stato processato con processi che hanno avuto un lungo percorso. C'è stato il primo grado, il secondo, la Cassazione, ad essere precisi la Cassazione annullò anche uno. Sì, sì, si tornò in appello e ci fu una conferma. È stato condannato. Ora, se il Brasile dà lo stato di rifugiato politico a Battisti, significa che non riconosce l'Italia come una democrazia, come un paese di diritto, e questo, secondo me, è un punto importante da affermare. Per questo ho scritto, come tu ricordavi prima, questa mattina sulla stampa, è in gioco l'interesse, è in gioco soprattutto ecco, il timore è che Berlusconi questa cosa non l'abbia fatta valere. Così, il mio timore, poi non sappiamo in realtà i contenuti del colloquio. Devo dire che all'uscita con i giornalisti brasiliani Lula ha detto: io quello che penso della vicenda l'ho già detto, e non fu una cosa favorevole all'estradizione. Adesso mi aspetto la decisione del Tribunale Supremo. Qui bisogna subito sgomberare il campo. È vero, è una decisione giuridica, ma in realtà è una decisione politica. Se il governo brasiliano, se Lula stesso fosse convinto che è giusto, secondo i principi che abbiamo affermato, estradare Battisti in Italia, l'estradizione già sarebbe stata decisa da un pezzo. Questo è il punto, non nascondiamoci dietro le formule, il Tribunale Supremo, i cavilli giudiziari, i cavilli giuridici, eccetera. Il problema è politico, c'è una parte del governo brasiliano, che è la sinistra del partito al governo, che per motivi insomma che adesso qui non stiamo a spiegare, vuole che Battisti non sia estradato in Italia, perché pensa che l'Italia negli anni 70 non l'abbia processato in maniera corretta. È difficile a questo punto avere un giudizio favorevole. Io lo dico, sono molto pessimista. Martinetti, lei? Anch'io, naturalmente mi baso su impressioni, perché notizie non ne ho, ma mi pare abbastanza chiaro che se il Brasile volesse estradare Battisti l'avrebbe già fatto. Stanno così guadagnando del tempo, c'è questa commedia di questo tribunale che ormai da mesi ogni tanto si riunisce, ci sono quattro giudici a favore, quattro contrari, chissà perché, un caso cioè. Ma insomma è una commedia. Poi come giustamente dicevi, la decisione dell'estradizione è sempre una decisione politica, indipendentemente il parere dei giudici viene usato appunto come parere, ma anch'esso viene orientato. D'altra parte in Francia fu così per tanti anni, i pareri dei giudici erano in realtà molto sottili e molto complicati da leggere, ma spesso erano sfavorevoli agli italiani. Quando è passata la decisione politica che si doveva estradare, i giudici hanno estradato, punto e stop. Quindi la decisione è politica. L'impressione mia, anche se non abbiamo notizie precise di che cosa si sono detti, ammesso che si siano detti qualcosa, perché io dubito anche che, ed era anche un po' questo il senso dell'editoriale che abbiamo fatto oggi sulla stampa, io dubito che il governo italiano lo prenda in quel modo lì, come un interesse, sì, questo, come la spia di un interesse vero, come l'indicatore di sì, devo dire che la settimana scorsa il ministro Scajola è andato in Brasile per una missione commerciale, si poteva anche non dire nulla, invece ha scelto di dire: qualsiasi cosa succede, i rapporti commerciali, economici tra l'Italia e il Brasile resteranno uguali. Per carità, nessuno chiede di fare la guerra termonucleare al Brasile se non dovesse essere estradato Battisti, però c'è la sensazione che alla fine il governo Berlusconi consideri questa vicenda, nonostante le parole, magari l'impegno formale, una vicenda del passato che in fondo insomma su cui sono stati commessi diversi errori da parte di tutti i governi italiani, che è meglio non su cui è meglio non accanirsi. Ecco, sicuramente non verrà compromesso nulla col Brasile in caso di decisione. Il Brasile sa questa cosa, e almeno questa è la mia sensazione. Adesso faccio un po' l'impressione è anche questa, però perlomeno io ho vissuto qualche anno all'estero come corrispondente e posso dire che queste piccole si fa per dire, perché poi non si tratta di piccole cose, ma queste piccole cose incidono molto sul modo in cui viene percepita l'Italia all'estero. E che ci sia uno Stato che afferma che di dare ospitalità a una persona che è stata condannata all'ergastolo in Italia, dandogli la qualifica di rifugiato politico, è una cosa pessima sul piano della, sì, certo, della stima che l'Italia. Naturalmente gli affari si faranno, per carità, gli affari si fanno anche con le dittature più terribili, gli affari si sono fatti con la Cina, con l'Unione Sovietica e con il Cile. Sì, sì. Figuriamoci col Brasile, che deve ospitare le Olimpiadi, sì, campionati del mondo di calcio. Poi dopodiché il Brasile è una società molto interessante, in piena espansione, quindi non è quello in discussione, ma sono, ripeto, piccoli e non piccoli dettagli che invece fanno male all'idea che in giro per il mondo sia dell'Italia, ecco. Bene, grazie a Cesare Martinetti, rifugiato politico, non ci posso credere. 1955 800 24 00 24. Abbiamo ancora il nostro amico da Pisa. Allora, Giovanni, io voglio capire da lei. Ma insomma, c'è un certo accanimento giudiziario nei confronti di Berlusconi, sì o no? Me lo deve dire sinceramente, chiaramente. Lei lo sente questo accanimento oppure è tutta un'invenzione? No, no, un'invenzione no. Io penso che ci sia un accanimento da quando lui è entrato in politica, sì. Ma alcuni problemi li aveva avuti anche prima, come sappiamo, e molti non lo sanno. Mm-hmm. E chiaramente, capito, è uno che dà lavoro a tante persone, magari i giudici hanno scansato lì, quando poi è andato in politica avranno pensato, ma perché uno che ha questi problemi con la giustizia deve entrare in politica? Porca miseria, Cruciani, ma cosa si deve fare? Cioè, lei ha detto, lei dice che lei è cinico e che quindi questa cosa qui non la fa... Cioè, io le ripeto, no, io ho detto, io ho detto ma che se ci penso impazzisco, Cruciani, perché un paese così non può andare avanti. TG5. Al via il vertice FAO contro la fame nel mondo, il Papa, ci sono le risorse per sfamare tutti, Berlusconi, fissare tempi e modi degli aiuti, l'ONU, ogni 5 secondi muore un bambino, Obama, i giovani cinesi, rispetto per i diritti umani e libertà di espressione, valori universali, basta censure su internet. Subito il carcere duro per il numero 2 della mafia, Domenico Raccuglia, arrestato seguendo la pista dei Pizzini, preso anche Francesco Rea, un capoclan della Camorra. Giallo su una macchia di sangue sui jeans di Stefano Cucchi, il ragazzo in palestra poche ore prima dell'arresto, in casa aveva hashish e cocaina. Si è suicidato l'uomo che una settimana fa è evaso dai domiciliari e ha sparato alla ex e al suo fidanzato, era stato arrestato per stalking. Profumo di Oscar per Valentino, The Last Emperor, film documentario sugli ultimi 2 anni di attività del grande stilista che sarà ospite in studio al TG5. Stasera il Grande Fratello, i maschilisti della casa subiranno un processo in diretta. Sorprese per 2 concorrenti. Andiamo a sentire il TG1. Vertice FAO, tante promesse ma pochi fondi per la lotta alla fame. Il Papa basta sprechi, Berlusconi rispettare impegni del G8. Fini, maggioranza non cambi regole a proprio piacimento. Riforme, Schifani, perso tempo, clamorosa rivelazione di Cosentino a Porta a Porta. Obama agli studenti di Shanghai, diritti umani e no alla censura di internet. A Pechino l'incontro con i leader cinesi. Nel covo del boss, ecco dove si nascondeva Raccuglia, parla l'uomo che lo ha catturato, caccia gli altri 2 capimafia. Aveva cercato di uccidere l'ex fidanzata e il suo nuovo compagno, trovato suicida nel Foggiano, lo stalker in fuga. Antonella Clerici racconta come sarà il suo Festival di Sanremo, edizione numero 60, dal 16 al 20 febbraio. Va bene, andiamo a Pavia. Daniele, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Ho sentito il resoconto alla radio del Vertice FAO, volevo semplicemente intervenire per dire che mi sembra, mi scusi il gioco di parole, l'ennesimo vertice dell'ipocrisia, per non tanto, cioè, non solo per il fatto che ci sono state dichiarazioni molto impegnative e importanti, senza però poi che ci siano state delle decisioni in merito allo stanziamento di fondi, oppure per i richiami al pauperismo da fonti diciamo poco, insomma, poco autorevoli da questo punto di vista. La mia considerazione, magari un po' provocatoria, è che forse l'unico vertice utile della FAO sarebbe quello in cui si decidesse il suo scioglimento, perché ammettere che ci sono ancora 1 miliardo di persone senza che soffrono la fame, credo, questo è il mio parere, che sia l'ammissione del fallimento di questa organizzazione. Ecco, questo è il mio semplice pensiero che volevo condividere con lei. Tutto qua. Sì, Daniele, guardi, io nei confronti di queste grandi organizzazioni internazionali ho sempre un certo scetticismo di fondo sulla loro utilità. Poi se si fa vedere il modo in cui si mantiene tutto l'apparato della FAO fa impressione. E poi non tutto dipende dalla FAO, naturalmente, che è semplicemente sovvenzionata dagli stati membri. Dunque, se ci sono responsabilità della FAO, le responsabilità sono dei singoli stati che fanno parte di questa organizzazione. La ringrazio. Fabio da Napoli, buonasera. Buonasera. Senta, prego. Volevo intervenire, anzi più che intervenire volevo illustrarle il mio pensiero quando oggi, e ringrazio Radio 24, mi ha fatto sentire il dibattito su cui si è incentrato, diciamo, su cui si è concentrato il Parlamento, mi pare ieri o oggi, cioè relativamente agli stranieri che giocano le italiane. La sento, dica Fabio. Non ci sente più. Alberto, provincia di Savona. Sì, buonasera Cruciani. Prego. Tanto una precisazione, io sono di Stella, in provincia di Savona, e ci tengo particolarmente perché Sandro Pertini nacque qua. Bene. E allora una cosa che tengo. No, però, visto che è ritornato Brunetta sulla questione di D'Alema, ministro dell'estero europeo, e premesso che io di certo non sono di sinistra, trovo però assurdo che in Italia non si riesca neppure ad essere tutti d'accordo su una persona che è comunque una persona di uno spessore indiscutibile in un luogo che è comunque nevralgico. Cioè non capisco come si possa mettere in discussione questa faccenda qua. Cioè la nomina di D'Alema ministro degli esteri dell'Europa. Guardi, Alberto, non posso pensare come un italiano possa non essere d'accordo su questo. Sì, anch'io, Alberto, dico la stessa cosa, che a prescindere dal fatto che D'Alema possa piacere o meno, possa essere simpatico ad alcuni, antipatico ad altri, penso che comunque un italiano in un certo posto sia un qualcosa di prestigioso e dunque è giusto che il governo italiano appoggi questa scelta. Non bisogna dare troppa importanza a questa carica, la politica estera europea non esiste praticamente, si tratta della politica estera dei singoli stati, ancora l'Europa è sostanzialmente solo l'euro, non c'è una politica comune per quello che riguarda la politica estera, per cui poi è importante, però si tratta, come si vede dalle biografie dei governanti europei e di quelli che contano in Europa, di personaggi spesso a fine carriera politica. La ringrazio. Fiorenzo, provincia di Pavia. Sì, buonasera. Dica. Senti, volevo intervenire in generale per la storia dei processi, processo breve, e circa quello che ha detto la signora Littizzetto. Secondo me la paura paventata dai magistrati e dai loro sodali per l'impossibilità di concludere i processi in 6 anni è faziosa e demagogica, perché se si dicesse invece quante ore, per quanti giorni lavorano al mese i magistrati e quanti giorni di ferie fanno lor signori in un anno, 52 per chi non lo sapesse, forse, e poi la signora Lizzetto dice che non ci sono i soldi, ma io dico che non sono i soldi il vero problema, e comunque fosse anche quello il problema, allora cominciamo a togliere il privilegio degli avanzamenti di carriera in automatico e attuarli invece per meritocrazia, allora vedrà che, come avviene d'altronde in tutti i settori privati, allora vedrà che cominciamo a risparmiare un sacco di soldi, se quello fosse il problema. Guardi, il problema della produttività dei magistrati è uno dei problemi che non sono stati affrontati negli anni passati, bisognerebbe affrontarlo, e dunque su questo, Fiorenzo, le do ragione. Dopodiché non c'è solo questo aspetto, non è solamente questione di carriere, del modo in cui si fa carriera all'interno della magistratura. Questa sera c'è Cosentino, il sottosegretario all'economia, accusato, come sapete, di concorso esterno in associazione camorristica, ospite di Porta a Porta, ci sono già anticipazioni, eccetera, eccetera. Prima di tornare al nostro amico di Pisa, Pietro da Monza, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, se mi permette vorrei prima di tutto dire quanto mi fa piacere avere sentito, a partire da lei, che la maggior parte degli ascoltatori considera questa legge veramente, con le dichiarazioni annesse, una gasparrata. Eh sì. Poi volevo però anche aggiungere che... Anche se non è solo farina del sacco di Gasparri, diciamo. No, certamente non è farina del sacco di Gasparri, ma lui continua a dire che è fatta solamente per adempiere alle direttive della UE, quindi si prende anche... È una comica questa. Sì, esatto. No. Però volevo anche aggiungere, mettendo un po' tutti i commenti, che la questione della giustizia non è soltanto una questione di mezzi, è anche una questione che spetta al legislatore. Cioè, ci sono dei semplici accorgimenti che, se venissero attuati, renderebbero la vita dei magistrati, dei tribunali, molto più facile è molto più veloci i processi e tutto quanto. Per esempio, mi dica una cosa. Ma per esempio la notifica. Ah, certo, certo. Se invece di avere una necessità di notificare a qualcuno che ha fatto un'azione criminale e che quindi tende a non stare in casa sua, eccetera, dobbiamo mandare 10 volte l'ufficiale giudiziario, che poi non vale neanche più perché adesso fuori giurisdizione vanno addirittura i postini, e quindi figuriamo. No, queste cose dovrebbero essere fatte attraverso email all'avvocato difensore. E quello vale come notifica e accelererebbe di molto i processi. Esatto, costerebbe la procedura. Zero, e gli ufficiali giudiziari, il cui organico è rimasto poco identico a 20 anni fa, potrebbero benissimo sopperire alle necessità per quanto riguarda la prima notifica. Certo. E poi, mentre tutte le altre, e sono tante, no, potrebbero benissimo essere mandate per email a costo zero all'avvocato difensore. Bene Pietro, la ringrazio. Gabriele ci chiama da Palermo, buonasera. Buonasera Cruciani, la ringrazio. Dica Gabriele, vado al sodo. E ringrazio anche le telefoniste. Bene. Dunque, io volevo intervenire sul caso Battisti, questa storia che si fa, che mi si dice dobbiamo aspettare il giudizio da parte del tribunale, ma vorrei capire di cosa si stia parlando. Io faccio sempre riferimento all'operazione Ira di Dio che fu compiuta dalla Golda Meir, ma questo per voler andare tanto tempo fa, potrei fare riferimento anche all'operazione fatta dai palestinesi, fatta con il soldato Shalit. Ovvero il rapporto fra gli stati è sempre stato un rapporto molto ottocentesco, di relazione, di compromesso. Insomma, se l'Italia aveva veramente a cuore Battisti, se voleva dare l'esempio, vedendo che tutti questi dinieghi, tutti questi rifiuti, prendeva un ragazzaccio di strada, un malvivente, e lo faceva gambizzare. Ora, beh, Gabriele, la questione non è gambizzare Battisti o dare un segnale di questo tipo, è fargli scontare la condanna in Italia. Io sono d'accordo con lei che in alcuni casi bisogna utilizzare la forza. Tempo fa in varie trasmissioni dove sono stato invitato ho proposto, anche se queste cose si fanno e non si dicono, di utilizzare il metodo israeliano per andare a catturare i criminali di guerra nazisti, senza fare paragoni tra i nazisti e Battisti naturalmente, però si potrebbe pensare a un blitz di questo tipo. Su questo sono d'accordo, la gambizzazione francamente non capisco. Questo è per dire, no, è stato fatto però, questo è il fatto. Cioè queste cose sono normali che accadano, dopodiché io mi rendo conto, è una cosa orribile, schifosa, ma il rapporto fra gli stati è orribile e schifoso. Io penso che vi sia una volontà da parte dell'Italia e del Brasile di giocare così il popolo è contento. Ma io non credo. Fa vedere che è bello forte, sì. E così si coprono anche, perché tra l'altro in Brasile mi pare che ci fosse stato un discorso con un tuffatore italiano di cui lo Stato italiano sì, ha protetto. Sì. Così si fa vedere lo Stato brasiliano è forte, lo Stato italiano è pure contento. E sì, Gabriele, c'è sicuramente una parte di orgoglio nazionale nella, o comunque di... Che fa bene secondo me. Non lo so se no, uno pensa a uno... la nostra amicizia col Brasile. Sì. Guardi Gabriele, io penso che tutte queste operazioni che si possono immaginare andavano bene in un altro periodo. Adesso insomma il Brasile è una democrazia abbastanza solida, noi altrettanto. Insomma, io penso che queste cose si possano regolare anche con spero sempre che queste cose si possano regolare con la logica, e la logica è quella di un personaggio che ha 4 condanne, che ha sul gruppone 4 episodi dove ha avuto diversi ruoli, che è stato condannato in un periodo che va dal 1981 al 1993, ultimo giudizio, tantissimi giudici coinvolti, verifiche, controverifiche, certo ruolo fondamentale dei pentiti, ma insomma processi regolari in uno Stato democratico, non la Cuba di Batista o il Cile di Pinochet. Secondo lei, Giovanni, come andrà a finire? Molti prevedono elezioni anticipate, un Berlusconi che è fuori di sé perché non riesce a ottenere il consenso necessario anche all'interno della sua coalizione, cerca di risolvere la questione con una prova di forza, oppure si presenterà il 18 gennaio in aula, in tribunale? Insomma, mi dica. mi dia una sua previsione, se ce l'ha. Io penso che lui si presenterà a gennaio in aula, ma risponderà alle domande come ha risposto alle domande di Repubblica da Vespa. Cioè? Non rispondendo? Cioè, vago, capito. Intanto così i suoi elettori si rendono conto che lui, insomma, c'è andato, effettivamente è stato di parola, però vago, niente. I giudici non ricaveranno niente. Cruciani non ricaveranno niente. Io non c'è niente da fare, io ho una sicurezza tale che mi meraviglia che lei invece sia cinico. Ma ecco, ma secondo lei l'asticella della vergogna e della non dignità in Italia, perché lei si imbelvizza come me, fin dove deve arrivare? A 3 metri, facendo il calcolo del salto in alto, che record non so quanto sia, 2,50 metri. No, molto più alta. A quanto deve arrivare? Molto più alta. Lei non si imbelvisce mai, cioè... Quasi mai. Dicono, ma è un paese sono abbastanza impermeabili. Ma la dignità, Cruciani, no, ma la dignità, Giovanni, è un'altra cosa, la dignità. No, è questa la dignità. Perché io devo essere governato da un presidente che, insomma, si può vociferare che potrebbe essere colpevole di corruzione? Perché, Cruciani? Giovanni, senta, ma gli appelli che fa... faccio come Ferrara, io levatemi, faccio come Ferrara col tratto. Faccia. Bene, abbiamo Luciano Ciocchetti dell'UDC, buonasera. Buonasera a lei. Allora, Ciocchetti, io non voglio discutere nei particolari gli italiani nelle squadre di calcio, perché è giusto che ci siano italiani nelle squadre di calcio. Quello che mi sorprende, Ciocchetti, l'ho detto prima ai nostri ascoltatori, che una discussione di questo tipo arrivi in Parlamento. Ora, fa impressione leggere, era credo l'onorevole Sarubbi, e sentire un deputato che elenca la... Vogliamo sentire un attimo? Sentiamo Sarubbi. In porta Giulio Cesar, in difesa Maicon, Samuel, Lucio e Chivu, a centrocampo Javier Zanetti, Cambiasso e Stankovic, trequartista Snyder, in attacco Eto'o e Milito. La squadra campione d'Italia in carica manda in campo sabato prossimo. Ciocchetti, voglio dire, il problema ci sarà pure, sicuramente i vivai, i giovani, gli italiani che giocano meno rispetto ad altri, per carità, insomma. Però io credo che sia una discussione che si può fare alla domenica sportiva, a controcampo. Perché, scusi, questo argomento è stato inserito addirittura nel dibattito per la nuova Costituzione europea, il famoso Trattato di Lisbona. Cioè, sul discorso della specificità dello sport, se esistono le nazionali, dovranno esistere le nazionali, non esiste solo la nazionale europea, esistono le nazionali di ogni Stato membro anche della comunità. Il problema è che negli ultimi anni in Italia i giovani non hanno avuto più opportunità. No, questo, non soltanto questo... nel calcio, se lei guarda il campione di basket, sono tutti stranieri, tutti. Però questo, io su questo ciò che ti posso anche essere d'accordo, potremmo discutere a lungo. Quello che mi domando ancora, lei però mi deve spiegare. Scusi. Quello che mi domando ancora è perché un dibattito di questo tipo, che è un dibattito che si può fare sui giornali, anzi viene fatto spessissimo in tutti i media, deve essere riproposto al Parlamento italiano sotto forma di una mozione, sotto forma di una discussione. Che porta di più? Che porta di più? Questo voglio capire. Beh, porta il fatto che se si è arrivati a questo punto ci sono anche decisioni degli Stati membri e della Comunità europea che hanno portato ad non riconoscere questa specificità, e quindi serve una decisione politica in sede nazionale e poi in sede anche internazionale che consenta di riaprire questa opportunità. Cioè, secondo lei il Parlamento nazionale potrebbe... La sentenza Bosman, ricorderà, sì, della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che si è arrivati a questa situazione. Ecco, appunto, siccome però è una vicenda che travalica un po' i confini nazionali, ci sono delle normative europee, la libera circolazione... Sì, ma noi facciamo parte della comunità. Certo, allora quindi... voglio capire, secondo lei bisognerebbe fare, e questo è il senso della discussione che lei ha aperto in Parlamento? I due sensi sono due. Il primo, che noi facciamo le leggi per gli stati delle società di calcio, facciamo le leggi per i professionisti del calcio e degli altri sport, facciamo le leggi per altre cose che comunque riguardano lo sport di vertice, non facciamo mai nulla per sostenere il vero movimento sportivo, che è quello di base. E un movimento sportivo, essendo comunque competitivo, vedrà che comunque bisogna dare delle opportunità a chi può, a chi merita chiaramente, non a tutti, di poter salire. Se noi a un certo punto interrompiamo l'opportunità di salire, è chiaro che noi avremo la non daremo più la possibilità alle società di base, alle centinaia di migliaia di società sportive che esistono nel nostro paese in tutti gli sport, perché il problema non è solo del calcio. No, no, va bene, ho capito, però Ciocchetti, voglio capire una cosa, tutto questo dibattito poi alla fine va in Parlamento, se ne discute tra alcuni parlamentari, eccetera, eccetera, alla fine che si fa? Purtroppo il Parlamento di oggi è commissariato, perché noi purtroppo possiamo discutere soltanto sui decreti del governo e quindi abbiamo parlamentari come le mozioni che ci consentono di sollecitare il governo e il Parlamento ad assumere alcune iniziative, cioè aiutare anche fiscalmente le società di le società sportive che promuovono i vivai, che portano avanti, investono risorse sull'attività giovanile. Io credo che sia un compito dello Stato. Sì, no, ho capito, però qualcun altro, no, per questo è d'accordo, però insomma lei che farebbe? Punirebbe con... No, io non voglio punire nulla. Cioè le società che presentano presentano 11 giocatori stranieri in campo? Io credo che bisogna spingere il CONI, che comunque è un'emanazione, sarebbe il Ministero dello Sport che c'è in Italia, a portare avanti questa regola che per esempio in sede europea sta passando, per esempio nel calcio di 6+5, cioè 6 giocatori provenienti indigeni, diciamo, e 5 soltanto stranieri, e quindi per esempio che l'internazionale calcio non potrebbe giocare con 11 giocatori stranieri in campo, la stessa cosa da applicare sul basket, sulla pallavolo, sulla pallanuoto, sul rugby, su tante altre discipline dove ormai i giocatori italiani si contano sulla punta di una mano. Mi sembra difficile. Comunque, in ogni caso, io resto sempre piuttosto scettico sul sarà fatto. Sarà difficile, però io credo che sia anche giusto tutelare un grande movimento come quello sportivo italiano, che nasce, dato che noi non abbiamo un movimento sportivo purtroppo nelle scuole, non abbiamo un movimento sportivo troppo organizzato, l'abbiamo diffuso su tutto il territorio grazie ai dirigenti sportivi, alle piccole società sportive. Se non gli si già sono fortemente penalizzati dal punto di vista fiscale, economico, e nessun aiuto e nessun sostegno, se non gli diamo neppure l'opportunità di far crescere nuovi talenti che possono avere delle opportunità, noi non obbligheremo le nostre nazionali a non giocarsi più l'opportunità di giocarsi concretamente la partita. Lo stesso presidente del CONI, nel forum che ha fatto la scorsa settimana sul Corriere dello Sport, ha detto: finché continueremo a vedere squadre che in campo mandano 5 giocatori stranieri, la pallacanestro non farà un solo passo avanti. Sì, ho capito, però comincia a diminuire. Credo che sia un problema anche questo. Certo, non è il problema più importante, questo non c'è dubbio. Va bene, grazie. Buona serata. 20:27. Continuo a pensare che certe cose in Parlamento mi fanno un po' impressione, non so perché, sentire i parlamentari elencare i giocatori di pallone, indignarsi perché ci sono pochi italiani. Poi in aula quante c'erano? 4 persone, 4 deputati, 4 deputati, Ciocchetti, Sarubbi, Pescante e un altro ancora. Grande interesse in Parlamento per questo argomento. Va bene, Salvatore da Prato, eccoci qui. Sì, buonasera dottor Cusciano. Io volevo chiedere solo questa cosa qui. Io ho sentito parlare di queste cause che verranno abbreviate, queste cause penali, credo, processi penali. Io scusate se non sono troppo preparato, però ecco, io volevo sapere una cosa: se si tratta della stessa cosa sulle cause civili oppure... Sì, c'è anche il civile, Salvatore. Ecco, perché io volevo solo dire questo, cioè come si può credere nella giustizia quando un povero cittadino che aspetta 10 anni che si concluda una causa civile per discutere un piccolo marciapiede su un'abitazione che praticamente... E le è andata anche bene 10 anni, Salvatore, le è andata anche bene. Francesco Rutelli, uscito da poco dal Partito Democratico, ospite 8:30, sentite. Non voglio fare polemiche, è evidente che non è stato così, è evidente che un partito che va su una strada diversa da quella sulla quale ci eravamo incamminati. Il mio obiettivo non è tanto di dividere o di separare, il mio obiettivo è di lavorare insieme con altri per creare qualcosa di grande, di largo, di nuovo, e per questo io lo sto facendo non da solo, ed non è giusto dire che lo faccia Rutelli. ci sono, ci sto lavorando, ci credo e lei mi trova appassionato e determinato, ma lo faccio insieme, lo vede lì, con Lorenzo Dellai, che è l'inventore della Margherita. La fermo e con perché... Bruno Tabacci, con Linda Lanzillotta, con tantissime personalità democratiche, liberali, popolari, riformatrici. Rutelli, intanto volevo ringraziare per essere con noi stasera Stefano Folli, editorialista del Sole 24 buonasera. Ore, che le nostre spettatrici spettatori. Eccoci qui, allora, Francesco da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Salve, io volevo intervenire sul discorso del calcio che viene discusso dai politici. Sì. Beh, io ho un altro punto di vista, diciamo. Probabilmente è un modo che c'ha la politica per essere più vicino ai discorsi della gente. Le spiego, io ho 31 anni, lavoro, ho un lavoro discreto, un contratto a tempo indeterminato, che di questi tempi è quasi una fortuna, e ultimamente mi sento parlare in televisione, nei giornali, solamente di processi brevi, di scudi fiscali, ponti sullo stretto, sono siciliano, pure, che sono argomenti che sono totalmente distanti da quelli che sono gli argomenti, diciamo, che interessano i giovani fondamentalmente. Ciocchetti prima diceva i giovani non hanno opportunità, probabilmente si riferiva solamente ai giovani che fanno sport. Ma sì, sono... però Francesco, il punto non è tanto questo. Prima dell'interruzione ho detto, lo sa quante persone c'erano l'altro giorno alla Camera dei Deputati a sentire le cose sì, su 3, cui... 4 persone. Insomma, è evidente che si tratta di un modo di fare il lavoro in Parlamento che è sbagliato. Non è possibile avere aule vuote e parlamentari che discutono di pallone, è una cosa ridicola, non ha senso. Ovviamente, cioè, il punto è proprio questo, dico, alla fine siamo arrivati a un livello che non c'è nessun argomento che può essere trattato se non queste chiacchiere da bar in politica. Ma la politica non si dovrebbe occupare di queste cose, il Parlamento non è un luogo di discussione, anche questa cosa delle mozioni, le interpellanze, sì, sono chiaramente delle procedure democratiche importanti, per carità, però spesso sono solamente un modo per giustificare l'esistenza di 900 parlamentari, di oltre 900 parlamentari. Il punto è questo, bisogna tagliare il Parlamento, bisogna asciugare, bisogna diminuire il numero di parlamentari, dare al Senato un altro ruolo, poi vedrà che una volta fatta questa grande riforma, quando mai sarà in vigore, non ci saranno più discussioni sul pallone, discussioni sulla coda e le orecchie dei cani, non ci saranno più queste cose qui. Ma lei è d'accordo che comunque si parla di tutto, gli argomenti sono sempre gli stessi e riguardano sempre le stesse persone, ma dei giovani, del problema delle case, del problema delle pensioni, non ne parla nessuno, lei sente un media che parla del problema giovanile attuale. Francesco, guardi, quando si vuole parlare di queste cose ci sono altre sedi, questa è un altro tipo di trasmissione naturalmente, penso che gli argomenti di cui lei parla in realtà si discute in diverse sedi, trasmissioni, per quello che riguarda la stampa se ne parla ampiamente. Angelo, provincia di Napoli. Buonasera dottor Crociani. Dica. Volevo dire la mia, io in effetti non mi scandalizzo più di tanto, le dico sinceramente, sul problema del parlare di calcio nel Parlamento, perché in fondo rispecchia la nostra società. Sarò lo sfortunato della situazione, ogni volta che vado al bar spesso e volentieri trovo delle persone che stanno avanzando una discussione accesa per problemi di calcio, non ho mai avuto la fortuna di sentire persone che stanno lì a fare una discussione accesa di politica, dei problemi della nostra società, di persone che si interessano alla nostra società, e questo è quello che mi dispiace. Voglio aggiungere due cose. La prima è un mio motto che porta avanti: finché la politica è una professione e non una vocazione, l'Italia non andrà mai avanti. E poi aggiungo, io mi ritengo una persona che appartiene, tra virgolette, ritengo del popolo del silenzio, quel popolo di quelle persone che fanno, rispettano le leggi, lavorano dalla mattina, vedi a quest'ora sto tornando a casa, fino alla sera, porta avanti un'attività anche nel sud. E poi alla fine ci si ritrova, non so che cosa mi ritrovo nel pugno, guardi, sinceramente, sarei a ore a parlare con lei, nel vero senso della parola, per esprimere la mia insoddisfazione, la mia desolazione, questa Italia che secondo me non va. La ringrazio. Va bene Angelo, non ho capito perché non va, sarebbe lungo discuterne. Maurizio da Torino, buonasera. Non so se sono in tema, ma ho acceso la radio e ho sentito che lei stava parlando. Lei è sempre in tema, Maurizio, qualsiasi cosa voglia dire. Di Battisti. Sì. Ma ecco, la mia è più una domanda, così lei potrebbe forse chiedere una risposta a qualcuno più esperto. Ho parlato con un mio amico avvocato alcuni giorni fa e lui mi ha detto che in Italia in teoria non sarebbe possibile fare un processo in contumacia. E quindi per Battisti in realtà il processo è stato fatto, infatti è stato condannato. E questo potrebbe essere anche un motivo per cui l'estradizione non viene concessa, perché fra stati non è consentito l'estradizione per persone che hanno già subito processi. Quindi vorrei... Non è così, Maurizio. Non è così, perché l'estradizione non dovrebbe essere concessa quando i giudizi sono stati... già svolti e sono archiviati addirittura quattro giudizi, cioè, per quattro episodi. Non vedo perché l'estradizione non potrebbe essere concessa in questi casi. Cioè, non capisco il salto logico, Maurizio, mi scusi. No, il processo deve prevedere la persona nel processo. Ah, ho capito, lei dice perché Battisti è stato processato in contumacia. In realtà il primo processo a Battisti non fu in contumacia, perché poi Battisti evase dal carcere di Frosinone quando, credo, il giudizio di primo grado sulla vicenda di Torreggiani già c'era stato. Detto questo, Maurizio, il problema è un altro. Poi in quel processo credo che Battisti però non ebbe una condanna pesante. Battisti aveva tutte le possibilità di difendersi, decise di non difendersi perché scappò, punto. La ringrazio. Roberto da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Niente, io volevo dire, allacciarmi al signore di prima che diceva che in Italia non va niente bene. Sì, nulla va bene. Sì, però non continuiamo su questa strada che non ci porta da nessuna parte, parlando di cose generiche. L'Italia non va bene, questo paese non va bene, perché altrimenti facciamo notte e ci addormentiamo tutti quanti. Abbiamo in Italia dei pozzi petroliferi, no? In Basilicata. Sì, un attimo solo, dai pozzi petroliferi, andiamo a sentire Rutelli a 8:30. Prima, scherzosamente, la fase botanica del centro-sinistra italiano, dal mio punto di vista, era l'occasione in cui tenere sotto quelle fronde irrisolto il problema post-comunista. Cioè a dire, noi non avevamo in Italia un partito comunista come gli altri, avevamo il più grande partito comunista all'Occidente, che ha partecipato a grandi riforme e a grandi successi, e a grandi vittorie, diritti civili, diritti sociali in particolare, ma che non ha mai fatto una dichiarazione di discontinuità dal 1989. Vede, io vengo spesso criticato perché ho avuto quattro partiti nella mia vita. Ho cominciato con i radicali, i verdi, la Margherita e poi questo approdo. Ma lo stesso è avvenuto per tutti. Chi mi critica, non so, Rosy Bindi è stata democristiana, cominciò con Andreotti, democristiana, Partito Popolare, Margherita e PD. I comunisti, mi faccia dire, i comunisti hanno stati comunisti, PDS, DS e PD. Qual è la differenza? Che loro sono convinti di far parte da sempre dello stesso partito. Anche Maroni era in avanguardia operaia, sì, no? Ha scritto lei nel suo libro. Mi scusi, il ministro degli esteri italiano di oggi è stato nel Manifesto e poi socialista, Frattini. Il ministro dell'interno è stato di avanguardia operaia e oggi è leghista. Il ministro della difesa era Missino, fascista, diciamo così. Non è un problema. In 30 anni l'Italia, il partito politico più antico in Italia è la Lega Nord. Il partito storicamente più antico è il Partito Radicale, che è nato nel 1955. Quindi in Italia tutto si è trasformato. Il punto politico qual è? Volevamo fare un PD competitivo nel centro della società italiana? Era il mio sogno, il mio progetto. Ecco. E invece abbiamo fatto un PD che ritorna sulle orme, dignitosissime, ma non è il mio progetto. Sì, sì, chiarissimo. Della sinistra italiana. Però senta, quando lei dice che vuole cambiare l'offerta politica, quello che offre... Allora, eravamo con Roberto da Roma. Sì. Allora, dicevo, i pozzi petroliferi. Niente, per quale motivo noi abbiamo dei pozzi petroliferi, vendiamo il petrolio all'estero e lo ricompriamo un'altra volta? Roberto, ma non lo so, francamente non le so rispondere a questa domanda. Non ci basta il petrolio che c'è in Basilicata e non so da quale altra parte? Non capisco la domanda. No, vabbè, questo è per le cose che non. Le cose strane dell'Italia. Sì. Poi un'altra cosa. Poi. Allora, da una parte abbiamo un signore che è Marrazzo. Sì. Che si è subito dimesso, dall'altra parte abbiamo un altro signore cioè, che di dimettersi neanche lo pensa, ecco. Vabbè. Niente, dall'altra Rutelli, visto abbiamo sentito un attimo Rutelli, il politico più opportunista che abbiamo in Italia. Vabbè, Roberto, poi che ci vogliamo mettere? Politico più opportunista, così buttiamo un sasso lì, politico più opportunista che c'è in Italia. 20 e 46, cerchiamo di, insomma, non dico di alzare il livello del dibattito, per carità, qui siamo sempre un po' terra terra, giochiamo con gli ascoltatori, però insomma, almeno di parlare di cose leggermente meno generiche. Torniamo a Pisa con Giovanni Rutelli, però, ancora Rutelli. Tanti anni, no? Ha detto tante cose e non voglio commentare le cose che si dicono in questo dibattito pubblico, perché abbiamo messo in campo una cosa, secondo me, importante e nuova. E come lei vede, il tipo di adesioni che si stanno raccogliendo sono veramente incoraggianti e significative. Lei pensi che soltanto alla mia mail personale sono diventati più di mille gli amministratori, sindaci, assessori, consiglieri eletti nel territorio e rappresentanti politici del territorio che dicono: noi ci stiamo, perché ci sembra finalmente di respirare. Vabbè, insomma, sta spiegando le prospettive di questa alleanza per l'Italia che sono ancora piuttosto nebulose per quello che riguarda le alleanze, o forse no, insomma, dipende poi da quello che c'è nella testa di Rutelli e dei suoi. Giovanni, il nostro imbervito, vorrei capire da lei, ma a lei Rutelli piace, non piace, è andato via dal Partito Democratico, che idea si è fatto di Rutelli? Insomma, diciamo che non c'ho un'idea, perché mi sembra anche lui una persona che prendo con difficoltà sul serio, Cruciani, io ne prendo sul serio pochissimo. E come mai? Ma qualcuno ci sarà? E Capaci mi sembra una persona seria, però non vorrei che fosse come Follini, che lui l'ha detto proprio Follini, io sono pigro. Ho l'impressione che anche Capaci, non lo so, poi mi sbagli, sia pigro, e in politica non bisogna essere pigri, bisogna essere delle belve scatenate, sennò non si ottiene niente. Capaci, io lo stimo, certo, chiaramente lui è un liberale come lei, Cruciani, io lo sa, liberale comunista, io non lo trovo uno simbolo, anche perché comunista forse non lo so. Io comunista non lo so, no, non mi attribuisca. Io più che liberale sono radicale, ecco, sono radicale nel senso proprio dei radicali, cioè io sono per i diritti civili, quindi io comunista radicale non lo trovo uno simbolo, anche perché Pannella fra l'altro è un fautore della doppia tessera, per cui io sono fautore della doppia tessera. Insomma, Rutelli non la convince. Non ho mai avuto una tessera nella vita mia. Cos'è che non la convince di Rutelli? Questo, il fatto che si sia avvicinato alla religione, queste cose qui? Sì, sì, io sono molto laico, e quindi insomma già quella cosa lì ci divide, ma mi divide anche da Tabacci. No, non lo so, se il partito che farà, se toglie voti alla destra, potrebbe essere una cosa utile, come i radicali che hanno tolto più voti nelle ultime elezioni in Italia, hanno tolto più voti alla destra, dice Pannella, che alla sinistra. Bah. E lo dice lui, hanno fatto dei calcoli, io non so come facciano, però evidentemente ci sarà un sistema. Io non ci credo. No, può darsi, perché no, può darsi. Ma non mi pare che la destra ne abbia risentito molto, comunque. No, poco, ma poteva prendere di più. Poi sai, i radicali prendono poco. Se una parte la levano, li levano, sono talmente pochi anche quella parte che insomma non ci se ne accorge nemmeno. Però, insomma, Rutelli può darsi che ne tolga di più, che le devo dire? Io ho l'impressione che le tolga anche una bella parte al PD. Ah, su questo non c'è dubbio, non so se è una bella parte o una piccola parte, quindi, questo è da vedere. Insomma. E qui in Italia non, e Saviano, non... Saviano candidato, che ne pensa lei, Giovanni? No, le ragioni che dice lei mi convincono abbastanza, insomma uno scrittore, una persona di estro, che si mette a fare scartoffie, effettivamente ce lo vedo poco anch'io, ma anche proprio dal punto di vista, mi sembra una persona... Capito? Lì ci vuole, è il solito discorso di prima, ci vuole merbo, ci vuole, non mi sembra, pelo sullo stomaco, insomma, no? Sì, pelo sullo stomaco, merbo. Lui mi sembra uno anche triste, poveraccio, perché poi come fa? Giustamente vive in un modo che io diventerei triste la mattina e la sera. Grazie, Giuseppe da Siracusa, un attimo, Giuseppe. Buonasera. Dica. Senta, io proprio volevo intervenire su Saviano, ma volevo fare una premessa, cioè quella che lei da un po' di sera a questa parte usufruisce della consulenza del mago di Rocca Cannuccia, il quale sa tutto di Berlusconi, perché si presenta, perché non si presenta, perché non ci va, perché ci va. E se ci dice come fa a sapere tutte queste cose. A proposito di che, non ho rivelato nulla di particolare, cosa ho detto? Cosa ho detto? No, appunto, proprio non ha rivelato nulla di particolare, ma ha delle certezze assolute con scadenze ben precise. A me mi fa solo ridere, vedo che lei sotto i baffi ci ride più di me. No, ma non ho capito che cosa ho detto di certezza su Berlusconi. Non lei. Il signor, no, non lei. Ah, no, lei Giovanni, il nostro Giovanni, il nostro Giovanni. Bravo, lei ci bagna, come si suol dire, ci fa la zuppetta. E noi ci ridiamo tutti. E vabbè, infatti. Perché effettivamente è il mago di Rocca Cannuccia che sa tutto. Fatto questa premessa. Giovanni come mago di Rocca Cannuccia. Bene. Allora, invece Giuseppe, lei che mago mi sembra che non è, non vuole esserlo. Cosa ci vuole dire su Saviano? Cosa voglio dire di Saviano? Dico che Saviano è una di quelle figure che è l'EPD, un partito che ha praticamente dei quadri antichissimi, gente che ha un percorso politico, ha la necessità di rivolgersi a Saviano, al giornalista di turno, con qualche incidente di percorso, perché effettivamente la classe politica, e nessuno me ne voglia, ma questa è la verità, perché i fatti lo dimostrano, e non posso essere smentito, non perché sono il mago di Rocca Cannuccia, ma perché basta guardare a ritroso quello che è successo da un po' di tempo a questa parte nel PD, per capire. Ma insomma. Giuseppe, siccome sente il nostro sottofondo con la sigla di chiusura della trasmissione, secondo lei il PD dovrebbe candidare uomini politici e non scrittori, giornalisti, eccetera, giusto? Ma proprio questo, bravo. Bene, bene. Allora, Giovanni, mago di Rocca Cannuccia, ha sentito? Sì, ho sentito. Vorrei rispondere all'ascoltatore che io invece sono proprio tutto contrario di un mago. Ho tantissimi di quei dubbi che se lo immaginasse non gli entrerebbe nella testa quel signore. Bene, grazie. Mariella da Trieste, Giovanni da Verona, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.